Eccoci. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Chi sta parlando? Non avrei neanche questo Milan costruito intorno a Balotelli, perché non ha mai dato impressione di essere campione. Vabbè, di comportamento lo sappiamo, neanche di calcio che gioca. Ti volevo dire su Balotelli che tutti fanno passare per un fenomeno. Io vi dico, avere Balotelli in casa è come avere un granchio attaccato a coglioni. Secondo me non capisci di calcio. A me dà più fastidio loro un atteggiamento di Balotelli, che ancora gli diamo la possibilità di giocare. Ha sbagliato, punto e basta. E Mario deve crescere. Shut up. There's a new man in town, and he's not fooling you around. Parte Balotelli col destro, eccolo, 1-0 Milan, Valo Isbak, quinto minuto e il Milan è in vantaggio, 521 giorni dopo quel Milan-Livorno 3-0 del 19 aprile 2014, e sorride pure. Mario è sempre, io sono sempre lo stesso, nello spogliatoio sono nello spogliatoio, nella mia vita sono completamente una persona differente da quella che avete descritto per tanti anni. Piano piano mi tiro via le mie soddisfazioni, ecco. Now he's back, reaching out, knock, knock upon your door. There's a new man in town. Non mi preoccupo tanto, o prendono un giallo o prendono le mie gambe, la palla non la vedono, quindi non è un problema. There's a new man in town. Beh, ho l'impressione che oggi ci divertiamo, Giorgio De Luca, il nostro autore, che ha montato questo refrain, questo excursus di Balotelli con tutte le sue dichiarazioni. Naturalmente non c'è solo questo, c'è molto altro, perché Balotelli rischia, l'argomento Balotelli rischia di oscurare quello del Milan, che continua ad essere una squadra estremamente difficile da leggere. Ieri Allegri aveva ordinato: non prendiamo più gol. 3-0 alla fine del primo tempo, 3-2 a fine partita, con un sacco di brividi, e Gagliani che dice: ho rivisto i fantasmi di quel 3-3 di Istanbul, magari esagerando. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Oggi è il giorno delle B, perché abbiamo Brocchi e poi Belinelli. Brocchi, Belinelli e anche Belinazzo. Anche Belinazzo, tutti. Parliamo di Balotelli. Quindi caro Bardo, Badini. Caro Bardo. Sì. Anche Bardo. Esatto, no, oggi qui a Expo c'è un clima da reporter di guerra. Vento gelido da nord, il nostro studio che traballa sotto le spinte del vento. È veramente una situazione da... Ti sarebbe piaciuta? Da reporter. Veramente lo so, da reporter. Lo so, ma io siamo, sono sulla siamo 4, tutti dentro. Io sono sulla 4, dove non è molto. Ma che sulla 4 tu sei sul divano. Cristian Brocchi, ciao, buongiorno. Ciao Cri. Ciao ragazzi, buongiorno. Come va? Senti, quando viene a trovarci Cristian Brocchi, di persone che facciamo 4 chiacchiere con Pardo? Hai ragione, ma io riesco a essere libero la sera, perché di giorno veramente alla mattina impegni di riunioni qua al settore giovanile, al pomeriggio allenamenti, tutti i giorni sono abbastanza impegnato, fortunatamente. E infatti domani sera di chitarra, vedi, proprio c'è, cioè, tutto torna, è una cosa straordinaria. Ti faccio una domanda su Calabria. Partiamo da Calabria, adesso poi parliamo ovviamente di Dallo, però Calabria molto bene. Ieri la sostituzione, insomma, era un modo per proteggere un giocatore che era già ammonito. Mi sembra che abbia una personalità da veterano. Ma assolutamente sì, lui è un ragazzo intanto a posto, con la testa sulle spalle, un ragazzo che già l'anno scorso in primavera mostrava delle doti superiori agli altri, dal punto di vista della personalità e dal sembrare anche già più grande, quindi questo gli permette di vivere le situazioni con estremo equilibrio, e a questo abbina delle qualità tecniche importanti, e quindi sono molto contento che in questo periodo sta facendo bene, e soprattutto perché mette anche in risalto quel lavoro che noi facciamo nel settore giovanile, che poi serve appunto a portare ragazzi in prima squadra. Cristian, oggi sì, ovviamente si parla, l'ha detto anche Pardo, di molto di Balotelli. Ci sarebbe molto da dire del Milan, che è una squadra abbastanza pazza in questo momento, no? Una squadra dalla quale, divertente se vogliamo, ne parlavamo proprio ieri, dalla quale non sai al momento che cosa aspettarti ogni volta che scende in campo. Ma può essere vero, è altrettanto vero che è una squadra che si sta creando, è un gruppo che si sta creando con una mentalità nuova, con un allenatore nuovo, e quindi logicamente quando diciamo che sono dei cantieri aperti le squadre a volte così, sicuramente in questo momento il Milan lo è, però c'è un particolare molto, molto bello, che è quello che appunto i punti arrivano, le vittorie sono arrivate, e quindi la speranza è quella che possano sempre venire a meno magari delle defiance come quella di ieri sera, e possano comandare la partita per tutti i 90 minuti, che è l'obiettivo dello staff. Certo, allora facciamo così, 30 secondi di pazienza, traffico, torniamo subito, ultima domanda per Brocchi. Gli ultimi 6-7 minuti ho tenuto gli occhi chiusi completamente, non so se mi ha ripreso qualche telecamera, e ho aspettato che finisse la partita. Certo che ho ripensato a Istanbul. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che Balotelli ha fatto un'ottima partita, ha fatto bene, ha fatto gol, ha tenuto la palla, si è fatto prendere un sacco di falli, non ha mai reagito, è stato sempre lucido, ma anche lui ha preso ammonizione subito e sicuramente era al rischio, però ha dimostrato oggi che comunque è tornato Balotelli livello e che comunque sa gestire anche queste cose qua, provocazioni e tutto quello che hanno fatto, tanti falli, ma è stato perfetto. Allora io mi limito a notare che sarà anche una libertà vigilata, ma punizioni come quella che abbiamo visto ieri sera non le calciano in tanti nel mondo. Poi lascio l'ultima domanda a Pierluigi Pardo per Cristian Brocchi, allenatore della Primavera del Milan. No, beh, la domanda è ovviamente su Balotelli, per capire a che punto siamo. Mi sembra un ottimo punto, in pochi potevano immaginare che entrasse così bene. Adesso però c'è la sfida più difficile, che è quella della regolarità del rendimento e del, in fondo anche del non farsi sorprendere dalle provocazioni, perché è vero che gli altri lo sanno, è vero che gli avversari lo sanno. Ieri comunque lui ha portato a casa 4 cartellini su 5. Cristian, credo. Ma penso che la sua modalità di gioco porti anche un po' a volte magari ad innervosire l'avversario, perché è difficile portargli via la palla quando lui cerca di difenderla, quando si fa dei giochini che possono in qualche momento innervosirti, ma la cosa più bella è che gli avversari comunque lo temono, e il fatto di sapere che c'è in campo uno che ogni volta che prende palla ti può risolvere la partita, e per gli avversari sapere che ogni palla che lui tocca può essere quella decisiva, sicuramente mette a pressione, è nervoso, però lui è stato molto bravo. Questo deve essere una cosa che fa adesso e che farà anche in futuro, perché solo così potrà continuare ad ottenere dei risultati ottimi. Io lo vedo più sorridente, lo vedo più tranquillo, lo vedo voglioso di far bene. Lui sa che si sta giocando un qualcosa di importante, perché stare al Milan è bello, e dopo che vai in giro in altri posti dove magari non sei riuscito a star bene alla stessa maniera, uno si vuole tenere stretto un posto che in tanti vorrebbero. Perché soffre dietro al Milan, Chris? Ma come ti ho detto, perché probabilmente sono cambiate le richieste, e quindi stanno cercando di metabolizzare anche quelle che sono le nuove richieste da parte dell'allenatore, e non sempre riesci nel giro di poco tempo magari a fare cose diverse, perché l'abitudine ti può portare a fare degli errori di valutazione in alcune circostanze. E però penso che sia molto più bello vedere una partita come quella di ieri sera, anche se una volta che il Milan va sul 3-0 le partite le deve chiudere, piuttosto che vedere magari delle partite sottotono dove tutti si è chiusi

anche la difesa, diciamo, anche se sono state, diciamo, alcune pecche, però diciamo questi errori, diciamo, fanno anche parte del gioco, quindi però che dire, mi dispiace di non aver vinto questo europeo, perché ci credevamo tutti quanti, avevamo acceso qualcosa di importante anche in Italia, grazie anche a Sky, sì. E sono contento sicuramente per tutti i tifosi che ci hanno seguito, infatti le ringrazio tutti quanti, perché il calore lo sentivamo veramente tanto, però ripeto, alla fine non abbiamo vinto e alla fine conta solo vincere, quindi sicuramente dispiacere c'è tanto. Aspettiamo il preolimpico magari a Torino. Pierluigi, vuoi aggiungere qualcosa? Per salutare, no, ti do appuntamento per oggi. Esatto, pardon, noi ci vediamo dopo, stai calmo. Ci vediamo dopo, no, io devo dire che quello che rimane, io sono appassionato di basket, non sono un esperto, però quello che mi sembra che sia rimasto, al di là della fragilità difensiva, delle rotazioni non chiarissime, del fatto che siamo stati più potenza che controllo, certamente più attacco che difesa, questa cosa l'abbiamo pagata, però c'è stata secondo me la disponibilità che gli americani, tutti i giocatori italiani che giocano nei miei, sì, gli americani tra virgolette, hanno dato a questa squadra. Mi sembra che questo sia un fatto oggettivo, al di là di Datome che è stato ovviamente più sfortunato dal punto di vista fisico con l'infortunio, però mi sembra che la novità di questo europeo sia stata questa, cioè che rispetto al passato c'è stata un'integrazione molto più forte e molto più profonda, non so se sei d'accordo, Marco. No, perfettamente, esatto, condivido pienamente, infatti quest'anno si era acceso qualcosa di particolare, quindi è stato bello così, sicuramente ci sono ancora cose da migliorare sia dal punto di vista difensivo, comunque anche dal punto di vista offensivo, però siamo usciti a testa alta, questo sicuramente è stato importante, ma non siamo riusciti a vincere, questo sicuramente dispiace. Ciao Marco, Poker Ciao, Face, Raffaele. Grazie. A dopo, diamo l'appuntamento, è in via San Pietro a Porto per i milanesi. Tu che sei molto bravo. Fai l'annuncio, Pardo. Alle ore 18 c'era anche il professor Mamoli che ha scritto il libro con Berinelli. Io farò il turbatore, l'appassionato, l'uomo grosso. Ecco. E parleremo di Poker Face alle 18 alla Mondadori di via San Pietro all'Orto a Milano. Va bene, ciao Marco. Ciao, Marco. A dopo. Ciao. Allora ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. C'è Antonello da Latina, Fabrizio della provincia di Pisa. 800240024 è il numero verde. Abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato con Cristian Brocchi, con Marco Berinelli. Poi affronteremo anche un preview di tutti i temi di questo turno infrasettimanale del campionato che ha mille aspetti di interesse. A dopo. Però il pubblico è un po' moscetto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Allora, l'Expo è bellissimo, stare fuori è bellissimo, anche perché esci di qui e ti capita di incontrare uno dei più grandi personaggi dello sport mondiale, come Giacomo Agostini, che ho immediatamente rapito dalla famiglia e dalla strada per portare qui. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Sì, difatti stavo passeggiando con mia moglie e mio figlio. E com'è? Dico, ma perché guarda qui Radio 24, entriamo. Entriamo. Com'è? Ti piace? Bene, sì, sono arrivato da poco, l'unica cosa è che fa un freddo oggi, è cambiato la temperatura da ieri a oggi, incredibile, poi piove, però vedo che c'è tantissima gente. Sembra di essere ad Assen. Che piove, no? Poi c'è il sole, poi piove. No, io ho detto prima a Giacomo Agostini, off records, un giorno ti rapisco e mi racconti per due ore che cos'è il TT, il Tourist Trophy sull'isola di Man, che hai vinto quante volte? Ne ho vinti 10. Ne hai vinti 10. Però per apprezzare questo uno deve conoscere, perché effettivamente il Tourist Trophy è una cosa, come ti dicevo prima, una cosa particolare, un giro sono 60 km, quindi per fare un giro ci vogliono 20 minuti, almeno all'epoca con le mie moto, adesso un po' meno perché le moto vanno anche più forte, però è una pista particolare, una pista. Io ho sempre detto che vincere il Tourist Trophy è come vincere un campionato del mondo, perché effettivamente è molto, molto impegnativo. Hai portato lì Valentino Rossi, mi dicevi? Sì, ho portato Valentino, un anno è venuto con me, abbiamo fatto un giro insieme e mi ha detto: Madonna che bello, vorrei ritornare a fare ancora qualche giro perché è un'emozione particolare. E, però ho detto: se mi dovessero chiedere di correre nemmeno per un milione di euro, perché effettivamente è una pista molto pericolosa, sì. Si gira attorno a questa isola dove da una parte c'è la roccia, dall'altra parte c'è il burrone o c'è il mare, poi vai in montagna dove c'è di solito la nebbia. Insomma, quando parti e fai un giro, durante un giro puoi incontrare le quattro stagioni. Sì. Pardo, sei lì? Sono qui, ho una curiosità. Mi spieghi, vai, da profano, come sono cambiate le moto? E per Valentino siete i due eroi del motociclismo italiano e direi mondiale. Mi spieghi se ci sono differenze tecniche di stile fra voi due, o in che cosa vi assomigliate oltre che nel talento, e che cosa invece è diverso fra voi? Beh, allora direi che le moto sono cambiate tantissimo. Direi che il campione, cioè un campione, un grande talento, ci sono delle somiglianze, perché non può uno essere completamente diverso, perché ci vogliono dei doni di natura simili. Quindi per essere un grande devi avere una ricetta unica, non puoi cambiare molto. Invece sono cambiate tanto le moto oggi, insomma, l'evoluzione c'è stata e c'è tanta elettronica, che questa, ecco, non è che mi faccia impazzire, perché io preferivo che il pilota facesse molto di più. Oggi il pilota fa ancora tanto, per l'amor di Dio, per vincere devi andare sempre al 100%, però questa tecnologia, questa telemetria, tutti questi accorgimenti elettronici ti aiutano molto e tolgono un po' al pilota. Quindi io preferivo appunto i miei tempi, preferivo quando il pilota usava il polso e il polso era quello che si sentiva, era quello che controllava la moto. L'altro giorno parlavo con Guido Meda e facevamo confronti a te, Valentino, i numeri, le statistiche, eccetera eccetera. Eravamo d'accordo su un fatto: Agostini sarebbe pronto a rimetterla tutta e a salire in moto pur di difendere il record. Ma allora c'è questo: i record sono fatti per essere battuti, quindi allora se riuscisse a vincerlo anche Valentino, dico vabbè, l'ha vinto. Uh-huh. Ne ho diversi di record, quindi Massimo ne potrebbe eguagliare o superare uno, che sono quello delle vittorie nelle gare del campionato del mondo. Però dico, ma per quale motivo devo essere falso, bugiardo? Per quale motivo Valentino o chiunque sia è felice di battere il record e io devo essere felice di essere battuto? Cioè, mi sembra una cosa, la verità non è questa, capito? La verità è che ognuno cerca di essere migliore, di avere i propri record, ma è una cosa naturale, quindi sarei bugiardo a dire diversamente, perché appunto ripeto, è perché loro li vogliono. Allora certo, i grandi sportivi sono anche i grandi agonisti, Pardo. Darei un collegio sicuro per la Camera dei Deputati dopo questa risposta, perché in un mondo spesso ipocrita, di simbolismo, di fair play ostentato, questa risposta è verissima. Poi è ovvio che Valentino Rossi è un patrimonio di tutti, eccetera, ed è anche ovvio che i confronti fra epoche sono confronti francamente impossibili, perché noi siamo lì ancora con Pelé e Maradona o Maradona e Messi, e una risposta non ci sarà mai. È anche vero appunto che tu non sapevi che sarebbe arrivato Valentino Rossi, magari se sapevi che arrivava Valentino Rossi facevi altri due anni di morte, non lo so. Quindi è ovvio che è un confronto chiaramente impossibile, però è difficile perché quando dicono: ma facciamo adesso, proviamo, chiediamo, facciamo un'indagine, ma no, non è giusto, perché ogni momento c'è il proprio grande campione. E poi naturalmente come faccio, che indagine faccio, che l'80% dei miei tifosi, di quelli che io davo le gioie, che da oggi Valentino a questi, i miei sono quasi morti tutti. tanti non ci sono più, quindi è logico che sono in minoranza. Mi spieghi invece, a questo punto, visto che ormai ho il poster di Agostini in camera, mi spieghi la velocità, la filosofia della velocità, che cos'è per te nella vita? Perché poi insomma spesso i piloti sono poi i primi testimonial della sicurezza stradale, l'esempio della, della prudenza nella vita di tutti i giorni, ma mi racconti che cos'è questo mix di adrenalina, di coraggio, di paura? Ma che, allora, aspetta un attimo, c'è un signore qui fuori che dice: io sono tifoso di Agostini, non sono morto, sono qui. Sì, io ho detto insomma una percentuale, purtroppo una percentuale dei miei grandi tifosi purtroppo non c'è più, e allora quindi sono, come ho detto, sì, prima, sono in minoranza. E invece dovevamo dire del, cos'è che mi aveva chiesto? Della velocità, dell'adrenalina, ah, la velocità della tua vita. Ma la velocità, sai, prima di tutto ci vuole grande amore, quindi io credo di essere nato, io sono nato perché mi ricordo quando incominciavo a pensare, certo, io volevo correre in moto, i miei genitori non volevano, addirittura dicevano, mio padre addirittura è arrivato quando avevo bisogno della firma, sì, per sì, iniziare, l'ho letta questa l'ho sentita, lui metto, io la, non firmo la morte di mio figlio, perché purtroppo ai miei tempi si moriva, non c'era la sicurezza di oggi. La velocità, pensa, io sono motociclista, però ad esempio io ho sempre amato la moto, ma usarla per una competizione, usarla per sfogarmi un'ora, cioè io non ho mai fatto i viaggi come fanno tanti in moto, caricano lo zaino e poi vanno, fanno dei viaggi, stanno via 3-4 giorni, che sono molto belli, io ho provato, però non mi danno la gioia che mi dà il momento. Io ho bisogno dell'ora in moto, sfogarmi andando forte, perché mi dà una gioia particolare, perché appunto amo le due ruote. E quindi la velocità mi dà gioia. Sai, Jack, lo faccio anch'io, la chiamo mototerapia. Ogni tanto dico a tutti: ragazzi, adesso via tutti, ho bisogno di un'ora di mototerapia. Bravo, esatto. Giacomo, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Traffico. Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Beh, Pardo mica male, eh? Belinelli, Agostini. Guarda, stavo pensando, due campioni del mondo. Sì. Sicuramente un campione due d'Europa, campioni forse del anche. Forse anche campione del mondo per club, però che bisogna vedere. Sicuramente campione d'Europa, quindi forse anche campione del mondo. 20 secondi di Wikipedia e passa la paura. Beh, non male. Passa non la paura. Sandro Sabatini, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi, sto bene. Anche dopo aver sentito Agostini, ero tifoso di Agostini. E sei vivo ancora? Bene, ecco, volevo rassicurare e sei vivo, che no? Ti conoscono. Ho preso un po' di freddo stamattina, magari mi viene un raffreddore, ecco. Massimo raffreddore, però sono vivo e vegeto. Senti, vegeto, Sandro, vegeto. A proposito di vegeto, volevo fare una domanda al signor Sandro: che lettera è la G, signor Sandro? È una vecchia gag del mio figlio, la racconto io. Quando io parlo con accento evidentemente un pochino toscano, quindi parlo di immagini, andiamo immagini. Via giusti, va, E allora il mio figlio, quando aveva 6 anni, andò in prima elementare e gli insegnarono le lettere dell'alfabeto. E una sera, dei primi giorni, tornò a casa e mi disse: papà, ma che lettera è la J? La G. E evidentemente niente, gli spiegai che era una lettera soltanto dei toscani, diciamo. Senti Sandro, a proposito di fenomeni, Belinelli, Agostini eccetera, ieri ha fatto 39 un tuo amico, si chiama, sì, Ronaldo. Sì. È bello, poi 30, chissà l'anno prossimo che l'hai, farà. L'hai sentito? Anni. L'hai, sì, sentito? Gli ho mandato un messaggio, però devo anche dire che sono peraltro abituato e non risponde ormai ai messaggi, anche perché immaginate quanti milioni di messaggi gli arriveranno, però credo che li legga, sono sicuro che li legge tutti, anche perché c'è scritto consegnato e c'è la spunta, quindi li legge di sicuro. E, beh, bello, no? 39 anni e... Guarda, secondo me lui è stato uno, il giocatore che più mi ha emozionato dopo l'era Van Basten Maradona, è stato il giocatore che mi ha emozionato, ma personalmente, al di là della maglia che portava, di più. Sì, posso, poi guarda, su Pierluigi lo sa bene, no? su Ronaldo ci sono anche quelli tipo Sacchi, no? Che l'ha avuto da direttore tecnico al Real Madrid, che dicono: avesse avuto anche voglia di allenarsi, sarebbe stato ancora più forte. in realtà tutti dimenticano che comunque Ronaldo per miracolo poi ha giocato anche troppi anni, avesse avuto la salute. Bravo. Più che l'allenamento avesse avuto la salute, Ronaldo avrebbe giocato chissà quanti anni, come quel primo anno, quell'anno al Barcellona e il primo anno all'Inter. Invece delle cose che sono ancora oggi da vedere su YouTube appena uno ha 5 minuti di tempo, insomma. Non è blasfemo il paragone con quelli che ho detto, quelli di cui sopra, insomma. Cosa succede stasera, ragazzi? Una cosa in 10 secondi. Dimmi, vai Pier. Non me ne frega niente di un Ronaldo che gioca altri 3 anni, studenti, una Champions League. Cioè, la grandezza di Ronaldo è una grandezza letteraria e si basa anche sulle disavventure che gli sono capitate nella sua vita di calciatore. Quindi questo non gli ha tolto nulla, ha aggiunto, secondo me, all'affetto e alla grandezza di questo giocatore. Io mi ricordo il giorno dell'infortunio di Lazio Inter, mi ricordo l'infortunio, tra l'altro sto facendo la telecronaca quando è tornato al Milan, le lacrime ovviamente si sono che Ronaldo è stato questo, oltre che ovviamente un talento enorme, per cui esiste, diciamo, la legge dei numeri, degli almanacchi e delle statistiche, e poi esiste il percepito è che lo sport è emozione, e certe volte le fragilità dei campioni che emozionano più degli scudetti o delle Champions League. Poi Pierluigi, ricorderai che Carlo, no, racconto solo in arricchisco con un minimo particolare rapido quello che ha raccontato Pierluigi Pardo. Anch'io ero ovviamente purtroppo testimone di quello che è successo durante Lazio Inter, no? Quando si ruppe per la prima volta il ginocchio, mentre la partita che racconta Pierluigi era Milan-Livorno. E sentivo la telecronaca di Pierluigi Pardo e purtroppo, avendo a memoria di quello che era successo, mi ricordo che ti mandai un messaggio per Luigi dicendo purtroppo è ancora una volta al tendine rotuleo, stai attento perché è molto grave, perché si vide dal movimento innaturale, purtroppo, ripeto, l'avevo già visto e rivisto mille volte, quel primo infortunio, anche lì si capì immediatamente che era l'infortunio della stessa gravità. Antonello da Latina, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io che succede stasera? Dica, che succede stasera nell'infrasettimanale? Stasera nell'infrasettimanale spero che l'Inter non vinca. Spera che l'Inter non vinca e poi? Spera che vinca chi? Il Milan, che già vinto ieri. Milan è già passato. E poi? E volevo intervenire su questo. Dica. Sulla discussione sul Milan. Che secondo me, se ne posso permettere, secondo me ieri una parte delle colpe è di Mihajlovic, che è sempre molto onesto, ma ieri secondo me ha sbagliato togliendo Zapata dal centro della difesa e noi abbiamo preso due gol dal centro per proteggere Calabria che aveva preso l'ammonizione d'accordo, ma se ogni giocatore ammonito deve essere sostituito. No? Intanto sono arrivati tre punti. All'intervallo in tribuna stampa il dibattito era togliere Balotelli, perché Balotelli ovviamente con il carattere che ha e con le provocazioni anche in qualche modo che i giocatori gli possono fare, sapendo il carattere che ha, era a rischio di secondo giallo ancora più di Calabria. Mihajlovic ha detto che ha fatto quella sostituzione perché voleva aggiungere centimetri in difesa mettendo Alex, che è un buon colpitore di testa. Il ragionamento ci poteva anche stare dal punto di vista della teoria, poi sono d'accordo, sulla pratica certamente non è stato un cambio efficace, ma lo sa anche lui evidentemente. Sul resto io sono abbastanza sulla linea di Brocchi, cioè io penso che sicuramente il secondo tempo di ieri è un brutto secondo tempo, ma mi sembrano assestamenti di una squadra che sta cercando di ricostruire un certo tipo di mentalità e quindi soprattutto all'inizio non tutto viene preciso. Allora, un minuto a testa, Sandro Sabatini per Luigi Pardo, poi dobbiamo andare con il GR. Sorvegliate speciali, l'Inter in casa con il Verona e grande attesa per il Napoli a Carpi dopo quello che è successo nelle ultime due partite e poi la Roma a Genova. Da dove può uscire la sorpresa? Sandro. Dall'Inter Inter Verona, perché Mandorlini ha comunque qualcosa di speciale che può mettere in difficoltà l'Inter, e questo qualcosa di speciale, oltre alla conoscenza, oltre all'orgoglio, oltre al destino che in qualche modo lo lega all'Inter, è il fatto che sta a giocare in difesa, e l'Inter è chiamata questa sera probabilmente per la prima volta ad affrontare una squadra che sarà palesemente comunque schierata per non far giocare, per non far giocare l'Inter. Sì. E quindi sì, credo che da lì può arrivare la sorpresa, anche perché se non arrivasse la sorpresa sarebbe veramente da stracciare tutto quanto si è detto e scritto durante il mese di agosto e prendere seriamente in considerazione l'Inter attaccandola, appiccicandola addosso l'etichetta di favorita per lo scudetto. Poi vedo sinceramente il Napoli che vince a Carpi, contro il Carpi, vedo anche la Roma che è assolutamente in grado di superare la Sampdoria, squadra ancora indecifrabile, e poi sulla carta Juventus Frosinone è Juventus Frosinone. Mi sembra scontata. Grazie Sandro, alla prossima. Ciao, grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Pier, 50 secondi per la tua. La partita più equilibrata è Samp-Roma, sì, secondo me. Non credo che ci sia discussione, è la più equilibrata di queste partite. Sull'Inter è vero che per ora ha sempre vinto con un gol di scarto, quindi ha vinto sempre, diciamo, con l'aiuto degli episodi che sono importanti nel calcio, che sono fondamentali, sì, e spesso gli episodi dipendono dai campioni. Quindi, però io penso che stasera l'Inter invece penso che vincerà, e penso che vincerà bene, e a quel punto quell'etichetta lì potrà essere tranquillamente disegnata. E sul Napoli sono curiosissimo, perché ero presente sul luogo a San Paolo, e quindi sono abbastanza curioso di vedere. Sono curioso di vedere il sequel di quel film, se esiste un sequel. Grazie Pier, ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Ci fermiamo per il GR, torniamo subito dopo per un'altra mezz'ora insieme. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Ciao Luigi, ciao per Luigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Convocati. Götze dentro da Vidal con il tacco per Müller in area, poi Lewandowski. Quando conta non sbaglia mai. Adesso il Bayern farà di tutto per provare a vincerla. Subito Lewandowski. In due minuti ha cambiato la partita. Ma che giocatore è Robert Lewandowski. Müller prova a girare per Götze. Dentro da con il cross dentro, ancora lui, ancora Lewandowski, ma fermatelo, non è possibile. Sovrapposizione interna di Lame, il cross è per Lewandowski, ma non è possibile, ancora Lewandowski. 5-1, 5 gol in 9 minuti, non è possibile, non ci crede neanche Guardiola. A proposito di imprese storiche, leggendarie, oggi abbiamo parlato con Marco Verinelli, è stato qui nostro ospite a Expo, Giacomo Agostini. Insomma, nel libro dei record c'è finito ieri sera anche Robert Lewandowski, che è entrato al primo minuto del secondo tempo al posto di Thiago Alcantara e in 9 minuti ha segnato 5 gol. Qualcosa di mai visto, certamente in Bundesliga, ma credo anche negli altri campionati. Potrei sbagliarmi. In studio a Milano dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente, Marco Berinazzo dal Sole 24 Ore. Ciao Marco. Buon pomeriggio, sono seduto al tuo posto. Ciao, ben trovato. Ho ascoltato Berinelli. Hai ascoltato Berinelli, sì. Sì, sembrava la telecronaca di Italia-Spagna con i tiri da tre di Berinelli a ripetizione. Tra l'altro sai che giochiamo nella stessa squadra io e Berinelli, cioè non i Sacramento Kings, ma dal punto di vista editoriale, diciamo così. Poker Face, Goal Economy, insomma, sono usciti con Poker Face, sì, con lo stesso editore. Con lo stesso editore, al piccolo modo, insomma, per sentirsi vicino a un grande, insomma, ci ha fatto emozionare la nazionale di basket, insomma, anche quella di pallavolo, so che poi ne parlerete. Poi ne parliamo, infatti, finito il mondiale, che era essenzialmente importante per la qualificazione alle Olimpiadi, abbiamo battuto 3-1 la Polonia, siamo qualificati direttamente per Rio de Janeiro, è stato un grande torneo per l'Italia. No, io sono un po' distratto qui da Expo, perché vabbè, davanti a me c'è la Ferrari dell'anno scorso di Kimi Raikkonen, che andava molto meno forte rispetto a quella di quest'anno, però è un bellissimo oggetto. Poi vedo, siamo uno spazio Emilia-Romagna, dei combattimenti medievali. Il tempo e il clima concidiano, perché c'è un tempo da tregenda, siamo in piedi con il nostro studio di vetro per miracolo, causa vento che spira forte. Allora, Luca da Torino, buongiorno intanto. Buongiorno, sì, buongiorno. Luca da Torino, buongiorno. Che ci dice? Poi parliamo del fidanzamento tra Milan e Inter sull'altare di San Siro. Dica, ma Luca, per l'amor di Dio. Cosa? Come? No, aspetti, come per l'amor di Dio? Cioè, noi non possiamo mischiare il diavolo e l'acqua santa, e mi fermo qui. E noi invece ne adesso le faccio spiegare da Belinazzo come invece mescoleremo, shakereremo il diavolo e l'acqua santa. Dica. Scusate, ma non so se riesco a essere molto chiaro, perché ieri ho perso 8 denti, e quindi niente. Allora, sono contento per Balzare pallavolo, fantastici. Sono contento per Marco Perinelli, comunque, cuore fortitudo. Sono contento per la Ferrari, perché da ieri sono un nuovo ferrarista, visto lo schifo che c'è in Germania, e quindi odio le macchine tedesche. Odio una parola Mercedes, è un simbolo dell'automobilismo. Adesso cerchiamo di essere sportivi, no? Cioè, non buttiamola sulla politica o su altri versanti, anche se nello sport si mescolano tante cose, però in questo caso non mi sembra il caso di mischiare la politica con lo sport, con i simboli, con le case automobilistiche, con ciò che sta succedendo alla Volkswagen, se no ci allarghiamo a tal punto da non poter più rimanere dentro a certi confini neanche di ragionevolezza. Marco Belinazzo, mescoliamo il diavolo e l'acqua santa invece? Assolutamente, mi sembra che si stia ragionando, insomma, seriamente sull'ipotesi di cui spesso abbiamo parlato, cioè di un San Siro destinato a una ancora lunga coabitazione tra Inter e Milan. Ora ne parla anche il mondo politico milanese, insomma si è parlato di un'ipotesi appunto di vendita in comproprietà alle due squadre di San Siro, dello stadio Meazza, in modo da dare la facoltà a entrambi i club di investire una somma tutto sommato accessibile, insomma intorno ai 100 milioni, e dopodiché provare a sviluppare quello che è l'impianto e le zone limitrofe per provare a creare, date, ripeto, le condizioni economico-finanziarie dei due club, un'area sportiva che intanto si sta popolando anche di altre realtà. Lì vicino nel 2016 ci sarà, a proposito di basket, anche il nuovo Palalido, insomma, dove giocherà la squadra di Milano. Cioè, quindi ho visto che lentamente sta prendendo una specie di forma. È qui vicino, insomma, quindi ci passiamo ogni mattina e vediamo l'avanzamento dei lavori, come un po'. Diciamo, ci fa sperare in un ritorno in grande stile anche del pubblico milanese, al di là di quello che possono essere poi i momenti in cui si giocano le finali, e quindi un'attenzione maggiore al basket che la nazionale può aver propiziato. L'idea, diciamo, di un San Siro in coabitazione, so che non piace tantissimo ai tifosi, magari non piace tantissimo a una parte della dirigenza dei due club, ma è il modo più redditizio per ottenere dei risultati a breve, soprattutto, ripeto, non potendo affrontare né una né l'altra squadra in questa fase gli investimenti e le procedure per costruire ex novo un altro stadio in un'altra parte della città. Mi sembra che ci siano dei buoni presupposti, insomma, patto però di avere, ecco, la possibilità, e essendoci a quel punto la comproprietà, quindi un patrimonio da poter dare in garanzia alle banche, si potrebbero ottenere quei fondi necessari a un restyling ancora più profondo di San Siro, ripeto, delle zone limitrofe, quindi con aree commerciali, con magari un museo anche in coabitazione, che potrebbe davvero attirare tantissimi turisti al di là dei tifosi. Stiamo parlando di un monumento del calcio mondiale, di un monumento della storia italiana, perché qui mi allargherei troppo, poi magari ti puoi No, io credo che si possa anche insomma, si tratta di un luogo storico comunque del nostro paese. Assolutamente, no? Credo che si possa anche parlare di luogo, diciamo, di cultura, se parliamo del calcio come passione, insomma, come elemento di trasporto. Se lo diciamo per il Bernabéu o per il Camp Nou, non vedo perché non dobbiamo vergognarci di dirlo, o lo diciamo per la Bombonera, non vedo perché dovremmo vergognarci di dirlo per San Siro. Credo che San Siro sia tra i 5-6 stadi al mondo, insomma, e possa vantare, ecco, un interesse culturale, se vogliamo definirlo in questi termini. Sì, sicuramente. Io vorrei farvi sentire insieme a Marco Berinazzo anche qualche voce della vigilia di questa di campionato, che si presenta particolarmente interessante. Ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo accennato tanti temi, alcuni spunti di interesse. Cosa farà il Napoli a Carpi, si riconfermerà? Cosa farà la Roma, che ha steccato in casa con il Sassuolo sul campo di Ferrero e della Sampdoria? Beh, per la Juventus credo risultato obbligato. Fare i puntati sull'Inter, che riceve il Verona senza Toni, e magari avrà un po' più di pressione addosso l'Inter stessa dopo le prime 4 vittorie. Insomma, sentiamo un po' di voce a partire da Garcia della Roma. Anche il risultato delle squadre che hanno fatto cambi, molti cambi o pochi cambi, mostrano che non c'è regola. Il problema non è il turnover, il problema è di giocare abbastanza bene per vincere. L'ho detto dopo la partita, ho trovato alcuni giocatori sì in mancanza di ritmo, non bene sul piano fisico, ma forse è questo il problema. Se non avevo fatto il turnover adesso, era ancora peggio per chi entra dopo a essere giudicati su se non è sulla stagione, almeno su un momento più lungo che oggi. Ma essere quarto con 8 punti, con 2 vittorie e 2 pareggi, aver vinto contro la Juventus e aver pareggiato contro il Barcellona in Champions League, non mi sembra catastrofico. E così l'imputato si difende. Ma molti rimangono della stessa opinione, che Garcia abbia steccato contro il Sassuolo quel turnover esagerato, non aveva ragione di essere. Poi abbiamo sentito la sua difesa di circostanza, insomma. Saverio dalla provincia di Macerata è in linea, mentre c'è un ascoltatore che si chiama Sergio da Vignola che scrive: ma Berinazzo adesso non chiede scusa al Napoli? Berinazzo, non chiedi scusa al Napoli? Perché adesso dovrei chiedere scusa al Napoli? Che ne so, io lo domando a Sergio. Eri pessimista. Ero pessimista, ma avevo anche date delle indicazioni tecniche a Sarri, che evidentemente ascoltate. Sto scherzando, naturalmente, certo. Però ragionavamo tutti sul fatto che occorrevano delle ali. Gli abbiamo mandato il pizzino. Ecco, gli ha cambiato la formazione, ha utilizzato le ali, ha cambiato di posizione Isai, mettendolo finalmente a destra, mettendo Gulam a sinistra, ha messo Giorginio al posto di Valdifiori. Finalmente uno ci ascolta, uno ci dà retta. Beh, la pronuncia, sai che siamo potenti. Sentiamo anche la voce di Mancini prima di un Inter Verona in cui l'Inter difende il primato, e nella quale assente Toni, assente Marquez, eccetera. L'Inter tutto sommato adesso potrebbe avere anche un po' di pressione o di ansia da prestazione sulle spalle. Parte del calcio, tutti gufano e tutti gufiamo, e quindi mi sembra una cosa abbastanza normale. Il resto non è, cioè non c'è niente di grandioso. Insomma, abbiamo vinto la prima partita, ma questo non vuol dire niente, non cambia assolutamente niente per il percorso della squadra, che comunque deve crescere e deve lavorare. Gufi che Mancini comincia a sentire sull'Inter. Mourinho lo chiamava il rumore dei nemici, Mancini li chiama gufi. Certamente stasera è una prova del 9 importante per l'Inter. Sarà molto importante anche invece, Marco Berinazzo, la partita della Lazio, che è stata presa a schiaffoni dal Napoli. dopo essere stata presa a schiaffoni dal Chievo, dopo essere stata sbattuta fuori dalla Champions League dal Bayer Leverkusen, dopo essere tornata a formello tra gli ululati dei tifosi indegni e altri epiteti di questo tipo. C'è questo confronto a distanza tra Roma e Genova. La Roma gioca sul campo della Sampdoria, la Lazio riceve il Genoa in una partita estremamente importante. Ormai la classifica, insomma, Lazio 6 punti, non dico che piange, ma nemmeno ride. Eppure il fatturato mi risulta che sia di diverso segno. Sì, no? Credo che incida molto nella stagione delle squadre che vengono eliminate al preliminare di Champions, insomma, l'aspetto psicologico è toccato al Napoli l'anno scorso, credo che stia toccando anche alla Lazio in questa fase. Detto questo, i tifosi biancocelesti possono consolarsi, insomma, in quanto Lotito ha fatto un altro piccolo miracolo dei suoi, chiudendo anche il bilancio 2015 con un utile, quasi 6 milioni rispetto ai 7 dello scorso anno. Il fatturato è cresciuto fino a 110 milioni, nonostante non ci siano in questo bilancio grosse plusvalenze, al contrario di quello precedente, ce n'erano 22. La preoccupazione però della dirigenza biancoceleste è legata agli ingaggi, che nonostante, insomma, si taccia Lotito di essere uno dal braccino corto sugli ingaggi, in realtà sono cresciuti da 49 a 58 e nell'insieme la mancata... Sì, però Marco, perdonami, facile sarebbe l'obiezione a vostro onore, non ha comprato nessuno. Sì, non ha comprato nessuno proprio perché ha atteso, come fece De Laurentiis l'anno scorso, di accedere alla Champions per tentare il colpo grosso. Non accedendo alla Champions ci ha rinunciato, e tant'è che alla fine del bilancio c'è sempre una nota in cui si parla di evoluzione della gestione. Di solito è una nota, diciamo, formale, sai, che viene, in cui si dice, si spera che si raggiungano gli obiettivi, bla bla bla. Nel caso della Lazio invece c'è una frase particolare molto significativa, che fa riferimento invece proprio agli investimenti che sono stati fatti sul vivaio e al fatto che molti giovani provenienti dal vivaio stanno giocando nella massima serie, nella stessa squadra biancoceleste, penso a Keita, a Cataldi, e questo potrebbe, appunto, far pensare che il progetto Lazio continuerà valorizzando questi giovani, magari vendendo e facendo belle importanti plusvalenze. Magari i tifosi saranno meno contenti, ma le casse della società per il buon umore di Lotito saranno sempre piene. Sì. Senti Marco, ti va di restare per parlare un po' di pallavolo? Assolutamente. Stai lì allora, Marco. Allora l'Italia, ricordo, ha battuto nella notte 3-1 la Polonia. Si è qualificata direttamente per Rio de Janeiro, preliminare per gli altri, per il basket, per chi direttamente non c'è andato. Vi faccio sentire al volo le voci di Bengini, del commissario tecnico, e di Simone Butti. Ringrazio tutti loro perché se lo sono meritato e ci hanno regalato questo grande risultato. Ringrazio davvero di cuore la squadra come squadra e ogni singolo giocatore per quello che ha dato, anche chi qua non è venuto ma che ha lavorato con noi anche solo un'ora. Ancora non ci credo, perché è stata una battaglia, una manifestazione incredibile, e oggi siamo stati veramente una grandissima squadra, abbiamo fatto una partita della Madonna. E l'abbiamo vinta con il cuore, l'abbiamo vinta con le unghie, siamo sempre rimasti attaccati al match, volevamo portarla a casa ad ogni costo. Su ogni palla eravamo sempre attenti, su ogni palla davamo tutto, quindi abbiamo fatto veramente una grandissima impresa. E allora, Marco Bellinazzo, dal Sole 24 Ore ti presento un monumento nazionale della nostra pallavolo, che è Samuele Papi. Ciao Sam. Ciao a tutti. Ciao. Samuele Papi, che è ancora in campo, naturalmente, tanto per non dimenticare, in Serie A Piacenza. Come valuti quello che hanno fatto gli azzurri alla luce di quello che è successo, no? Del cambio di commissario tecnico, dei casini della World League e di tutte queste storie che conosciamo? Ora vanno lì e fanno questo torneo praticamente perfetto. Ma ha fatto sicuramente una gran cosa. Io quel torneo lì ho giocato 2-3 volte, è un torneo difficilissimo perché si gioca una partita dietro l'altra e sai che devi entrare nelle prime due per cercare di arrivare alle Olimpiadi e devi scontrarti contro squadre di altissimo livello. Ma sono stati molto bravi perché non hanno mai mollato in tutte le partite, hanno perso soltanto con gli Stati Uniti e poi nelle altre, le più importanti, le più difficili, alla fine hanno espresso secondo me un gioco di, di altissimo livello, quindi mi fa veramente piacere. Sono stati molto molto bravi e hanno dimostrato che ancora l'Italia è una squadra che può dare filo da torcere a tutti. Quindi questo è il valore assoluto della nostra nazionale? Ma secondo me siamo sempre stati una nazionale che, anche se ultimamente ha faticato a vincere qualcosa di importante, è sempre stata fra le migliori. Non dimentichiamoci che è arrivato anche Guanto Regna, che secondo me, io ho sempre detto, è tra i migliori schiacciatori al mondo, e quindi ha aiutato molto questa nazionale. Adesso avranno gli europei, dove sarà difficile, dovranno ricaricarsi e provare a vincere questo europeo, che sarà sicuramente importante. Però devo dire che hanno fatto una cosa veramente bella. Sì, Marco, vuoi chiedere qualcosa a Samuele Papi? No, ero insomma interessato al fatto che anche, mi sembra, le nazionali giovanili stanno andando bene, insomma c'è una rinascita anche della pallavolo italiana, come della pallacanestro. Insomma, volevo chiedergli appunto se è un caso o se c'è stata una buona programmazione. Sono molti anni che avviene, cioè che c'è un ricambio generazionale costante. Ma questo fa sicuramente piacere, vuol dire che si sta lavorando bene, anche perché abbiamo bisogno di giovani interessanti che vengano fuori. Hanno dimostrato nei vari campionati che sono arrivati sempre lì, e quindi questo fa ben sperare per un ricambio negli anni futuri per la nostra nazionale. Samuele, detto fuori dai denti, il cambio di commissario tecnico ha inciso su questo risultato degli azzurri? Ma non lo so, sai, perché dopo alcune situazioni, per vivere, per capirle bene, bisogna essere dentro. È chiaro che se Mauro Berruto ha deciso di chiudere, molto probabilmente qualcosa non andava secondo lui e secondo i suoi metodi. Kiko Blengini comunque è stato con lui per tutto quel periodo là, è un allenatore giovane molto bravo e lo ha dimostrato soprattutto in questa World Cup. Ha richiamato un po' i giocatori che c'erano stati quei casini famosi, sì, sono venuti fuori. Loro si sono messi d'impegno a cercare di giocare bene. Ivan Zajdev ha fatto sicuramente una World Cup di altissimo livello, quindi sono contento. E non dimentichiamoci che comunque mancano ancora dei giocatori importanti nel gruppo della nazionale, perché ci sono alcuni giocatori che sono operati, tipo Parodi, Kovar, quindi non c'era Birarelli per un problema, quindi abbiamo ancora giocatori che possono dare una gran mano a questa nazionale per poter fare qualcosa di importante. Grazie Samuele, grazie, grazie, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie Samuele Papi, grazie anche a Marco Berinazzo. Grazie a te, qualcosa di importante è l'Olimpiade, che ci è sempre sfuggita. Speriamo, incrociamo sempre le dita. La nostra croce pallavolistica, quella Olimpiade. Grazie a Marco Berinazzo, siamo qui a Expo. Saluto Carmelo Lauricella qui in regia, immagino ci sia Gianmarco Ferronati in regia a Milano, Benjamin mi ha fatto compagnia qui, Giorgio De Luca è il nostro autore, Giovanni Melchiori. Domani ci ritroviamo ancora qui, ancora ad Expo, alle 14 siete tutti convocati. Ciao a tutti. Grazie, buon appetito.